su basi poco plastiche, pasticciole metriche senza ostentazioni di formule matematiche, senza metafore che nascondano scarsità tematiche critiche di un deficiente col complesso di Cassandra. Tu vedi solo Atene adesso, io vedo Alessandria con la lungimiranza. Già è vero, potrei sbagliarmi, o forse voi siete quelli della maggioranza. Sta di fatto che attinenza qui come rima non c'entra. Vedo chi si addentra, scopre solo la superficie, ovvero approfondisce e parla solo di quello che capisce. Vedo, plepo, gente che si definisce artista, gente che si decreta diversa, contrapposta a chi è stato escluso già dal tempo della fanciullezza. Troppo semplice per me sgusciare, subentrare in una delle sopracitate categorie. Il panettone delle Tre Marie, appoggiato sul mobile di una casa posta in una delle tante vie di Milano. Le midicerie sono l'esatto contrario di una spiegazione del dizionario. Ora reazionario, ora partigiano, bastardo. Quando non capisci cosa una persona dentro usi il termine strano, però ti confesso che non mi conosco perfettamente. Scommetto, scommetto deflagrante, la situazione reprimente e deprimente, viceversa e viceversa. Il mio rap va per la gente che pensa di conoscere il mondo e se stessa. La gente è scettica, ma solo in apparenza, non perché si sente finta, ma perché sappiano che questa è solo suggestione intrinseca. Maschera, tutti portano la maschera, e se non ti fidi sappi che questo l'ha detto Pirandello, non io, Pirandello. È difficile quindi trovare una rima con Pirandello che abbia senso e che non sia scontata come bello, cervello, pisello, tassello. Sono una maschera nuda che si guarda vivere da fuori e se ne fotte degli ascoltatori, che la verità fiore non ha importanza. A loro basta un'altra improbabile teoria sul mondo che li circonda. E tu, che stai scuotendo il capo di suo stato, vedi di avere meno presunzione. L'unimo sess 15, brindisi, io no brindisi. Sensi troppo lucidi, perché tu ubriaco riesca a specchiare la tua presunzione sopra i volti di noi stupidi, altrimenti morti, altrimenti vivi. Questo ritornello privo di cardini, l'unimo sess 15. Che cazzo ripeto a fare il ritornello, tanto non ti vedrò mai mentre fai la spesa che canti lazze biose contro io, contro io. Adesso fermati e spiegami che cazzo vuol dire io. Cosa? Esplica. Detesto e coltivo una barbabietola, però tu non mi sai ancora dire io che cazzo significa. L'ignoranza non ti giustifica, hai appena 20 anni, hai già la mente frigida. Critichi tanto la gente che come me è stupida, ma sei esattamente uguale alla gente che idealizza e nobilita la domenica. Tu hai scelto, io no, a volte mi piacerebbe averlo fatto anch'io, ma quelle volte spio il tuo futuro e dico grazie a Dio, sono dubbioso con brio. Certo, hai trovato il tuo spazio, adesso sei fra quelle persone che nel 600 mandarono Galli al processo. E forse è giusto, però mi dover dirti quanto tu ci abbia scassato il cazzo. Scomento nel vedere nuovamente che non vengo creduto, che ogni mia frase si riduce a volte all'inutile, a volte all'anacoluto. Scalda a temperatura solare l'olio e poi lo bevo con l'imbuto. Questo sono io, spontaneo e costruito, casuale e calcolato. Questi siamo noi, ci siamo rotti i coglioni per dirla in 5 parole. Lasse biose, disquisiamo con le persone in generale. Perché non vuoi parlare di nessun altro genere musicale? Perché quando dico sperimentazione capisci solo crossover. Quando faccio il bagno mi lavo col sapone, assieme al mio trattore, Landini turbo diesel, Diebel Spark in America. In lontananza vedo un'anatra, si sta avvicinando un'anatra, ne sento l'odore. Smetto di fare i pop e passo al punk hardcore.